בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Due minuti dopo le ore 21 di questo mercoledì 6 febbraio 2013, buonasera a tutti da Blu Radio Veneto, dal sottoscritto Gilles Facchinelli in questa freddissima serata, ma ci penseremo noi a scaldarvela un attimino, e buonasera anche da Maurizio Calzavara, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera Gilles. Ciao Maurizio. Stai bene stasera? Io sto benissimo. Sono... È freddo, ma siamo caldi, noi siamo caldi. Certamente, siamo caldi, anche se veramente questa sera si parlerà ugualmente di neve. Esattamente, si parlerà ugualmente di neve, effettivamente. Allora, Maurizio, qualche novità della settimana particolare? Tutto bene? Sì, musicalmente siamo sempre, abbiamo ospitato musicisti di grande valore. Stasera ospitiamo, secondo me, una cantautrice molto particolare, molto interessante. Interessante per tanti motivi musicalmente. Il disco è piaciuto molto a noi due, e non soltanto a noi due, noi della redazione in toto. Però ha una garanzia questo disco, è prodotto da Ruben. Ruben è un musicista che è venuto spesso a trovarci, è una garanzia assoluta di cantautorato fine e importante veronese. Certo. Io parlando con Neve dicevo appunto questo, quando abbiamo ascoltato il suo disco, quanto ci è piaciuto, e soprattutto ho detto: se piace a Maurizio vuol dire che siamo veramente a un punto massimo. alla redazione in toto, quindi Alberto, quindi Agostino. Certamente. Allora diamo il benvenuto a Neve su di lei. Buonasera. Buonasera Neve su di lei. Ciao Gile, ciao Maurizio. Ciao, buonasera. Benvenuta. Che belle parole. Che belle parole, grazie mille a tutte e due. Sì, grazie. Piacere. Ti dico, a me è piaciuto molto il tuo disco per un motivo semplice. Il tuo punto di riferimento è Joni Mitchell. Allora mi devo alzare in piedi e devo perché Joni Mitchell fa parte del mio humus. Io ho una certa età, è California, quindi i colori californiani, Joni Mitchell, c'è poco da fare. Assolutamente. Sì, no. Non c'è alcun dubbio, io l'ho sempre detto, è sempre stata, non sempre in realtà, però a me sembra che lo sia da sempre, è una sensazione strana. Perché Johnny è una musicista particolarissima, ha dato una impronta, si ricorda, ci dice, che le due grandi cantautrici che hanno spopolato, che hanno aperto l'orizzonte femminile sono state Carole King e Joni Mitchell. Sì, infatti comunque anche Carole King, devo dire, mi piace molto, l'ho ascoltata parecchio, però devo dire la verità che Joni Mitchell è stata proprio una rivelazione. Sì, Carole King non ha le accordature aperte, chiaramente quello sì. Accordature aperte, io mi sono innamorato delle accordature aperte e il mio insegnante di chitarra, basta, non ne poteva più, mi ricordo, cioè non facevo più gli esercizi, niente, zero. Mi disinteressavo degli esercizi, è stata veramente un'illuminazione conoscerla, sì. Iniziamo a entrare sul vivo, iniziamo a conoscere un pochino Neve su di lei. Vive a Genova. A Genova, sì. Com'è questa Genova? Questa Genova per me è sempre stato un odio amore. La città di Genova, perché da un certo punto di vista è una città anche abbastanza chiusa, questo è abbastanza riconosciuto anche nel resto d'Italia, e quindi ricordo che a 18 anni volevo andarmene assolutamente, non ne volevo più sapere di questa città che mi sembrava così chiusa, così anche forse un po' troppo riferita a De André. Ovviamente, no? Che naturalmente certo. è assolutamente stato un nome importantissimo, continua a esserlo, però forse per i cantautori, diciamo, della nuova generazione, come posso essere io, è sempre stato un po' anche un blocco. Diventa un peso, tra virgolette. Un pochino sì. E quindi io me ne sono andata anche felicemente, devo dire, sono volata a Torino e lì ho vissuto delle esperienze importanti. Ecco, quindi in realtà io non mi sento genovese nel senso della scuola dei cantatori genovesi, perché in effetti non ho quasi nulla di quella tradizione lì, anche se ho fatto la conoscenza con dei grossi personaggi anche della scena genovese che mi hanno aiutato tantissimo, io li ringrazio assolutamente, li ringrazio anche nel CD oltretutto, quindi Claudia Pastorino, per esempio, è stata la mia insegnante di canto, e preziosissima, bravissima. E poi ne parleremo comunque. Parleremo anche di loro poi, perché sì, è stato sì, un sì, momento certo. importante della tua vita artistica. Allora, certo, sì, Maurizio, sì. pensa che Cerca la bellezza, che poi parleremo anche un po' del titolo, è la prima volta in assoluto che viene proposto in radio. Ah, questo non lo sapevo. È una cosa, è una bella cosa per noi, chiaramente. Sì, perché viene presentato ufficialmente il 21 febbraio, mi sembra. Esatto, quindi lo anticipiamo di qualche giorno, Neve Sudini. Sì. Molto volentieri, tra l'altro, sono molto contenta di presentarlo, di fare questa anticipazione con voi. Sono molto, molto contenta. Allora, Marcella, io direi che possiamo presentare, iniziare un po' a far ascoltare anche la tua musica, poi entreremo nuovamente un po' a parlare di Neve su di lei. Okay. Noi abbiamo deciso di iniziare con parlando di un giorno speciale. Mm. La canzone La mattina nel quartiere dei fiori, okay. A me è piaciuta moltissimo, ascoltando anche il testo mi ha dato anche un'emozione. Diciamo di cosa parla questa canzone? Allora, questa canzone è, penso, il testo più semplice che abbia mai scritto, perché parla semplicemente di una mattina, di quello che era la mia mattina quando abitavo in questa parte del quartiere di qua, di Mille, che è un quartiere famoso. C'è questa parte del quartiere che si chiama proprio Quartiere dei Fiori, e è un quartiere abbastanza popolare, pieno di cose, le classiche cose che si possono trovare in un quartiere, quindi i mercati, il supermercato, le persone che vanno, vengono, ma quello che a me colpiva particolarmente erano questi muri di cartone, certo. Che da qui ci si svegliava e si sentiva già tutto quello che succedeva nelle case, quindi il bambino che piangeva, le persiane che sbattevano, le persone che parlavano. Ed è semplicemente la descrizione di una di queste mattine. È un ritratto. E allora ascoltiamocela in musica. Ok. La mattina nel quartiere dei fiori di Neve su di lei. Blue Time. Perché abbiamo scelto questo pezzo? Adesso te lo spiego il motivo. Okay. Perché secondo me è una specie di jam session, cioè c'è una fratellanza fra i musicisti, questo gioco percussino, questi violini, una libertà totale. Io me lo sono immaginato come una jam session, quindi la California di traverso, popolare ma divertente. Voi suonate così, divertendovi. Sì, ci sta, perché ci sta questa descrizione, perché anche se io in realtà non ho registrato, non ho potuto registrare con la sezione degli archi. Degli archi. Per motivazioni proprio pratiche. Sì, ho capito. Però ho registrato invece in diretta con il percussionista. Esatto. E mi sono divertita come una matta. Perché perché giustamente il disco è registrato in presa diretta, come si usava una volta, come si usava in California. È quello il bello del discorso. Esatto, sì, esatto. È stata una scelta assolutamente condivisa sia da me che da Ruben, eravamo d'accordissimo su questa cosa. Citiamo Ruben, che è un musicista fine e ha scelto, secondo me ha fatto un ottimo acquisto producendoti. Sono pienamente convinto di questo. Beh, grazie, no? Quando lui mi ha proposto di incidere questa canzone, mi ricordo che mi ha detto proprio: vorrei farla un po' sambata, sì, un po' movimentata, un po' di contorno, di libertà totale, di Sud America, via, esatto, di Sud America con un po' di bias di Cisco che gira a largo. Esatto, e ci ha azzeccato in pieno. Bravo Ruben, bravo. Di solito un artista, quando si avvicina alla musica, ha sempre qualcuno in famiglia che suonava qualche strumento. È successo anche a te la stessa cosa? È proprio no, cioè, proprio assolutamente no. Nel senso che l'unica persona che suonava qualcosa nella mia famiglia era mia nonna. Ma non ha mai voluto che io mi avvicinassi al suo pianoforte. Era intoccabile. Quindi in realtà io non l'ho mai neanche sentito suonare. E un giorno mi ricordo mia madre mi chiese: Marcella, adesso vuoi cominciare magari a suonare qualcosa, vuoi suonare il pianoforte? Io ormai lo odiavo questo pianoforte, perché me lo vedevo sempre davanti, però nessuno me lo faceva mai toccare. Quindi quando finalmente mi venne data la possibilità, io rifiutai, dissi assolutamente no, basta, prendo la chitarra. E quindi mi toccò la chitarra, o pianoforte o chitarra, insomma. E quindi da lì è partita un po' la carriera artistica di Marcella. Insomma, poi ci sono stati varie vicissitudini di cose, successi, amore, odio. In realtà poi io ho trovato la mia strada piuttosto tardi. Sì. Tardi. Esatto, in pratica è iniziato un tuo momento particolare, ne parlavamo prima, quando sei rientrata a Genova ed hai conosciuto Enrico Pinna e Claudia Pascarino. Esatto, lì è stato proprio un momento importante, perché ho cominciato a scrivere veramente delle cose che finalmente mi rispecchiavano. E poi Enrico Pinna, questo bravo chitarrista jazz, mi ha fatto da maestro e mi disse una volta, mi ricordo, ma tu un pochino mi ricordi certe cose della California, ma prova a sentire un po' Joni Mitchell, basta, ecco. Come dicevo prima, l'amore poverina, poi è stato un po' anche colpa sua, insomma, se l'è un po' cercata, diciamo. Sì, è una colpa da elogiare come colpa, secondo me. Sì, certo, ovvio, io poi scherzo, nel senso, però mi ricordo che poi lui mi dava gli esercizi, non li facevo più. Ah. Quindi a un certo punto, sì, perché non mi basta, cioè, nel senso, io ormai ero... Eri già l'idea da dove andare. Sì, perché è stato proprio... Non, mi ricordo che quando suonavo con le accordature normali, comunque, sì, non mi dava veramente soddisfazione. Mancava qualcosa, non riuscivo a esprimermi veramente, mi ricordo. Invece quando finalmente ho scoperto questo modo diverso completamente di suonare, proprio un'altra cosa... E mi si sono aperti dei mondi in cui io mi trovo a mio agio come nessun altro. Un'altra cosa che hai entusiasmato dal punto di vista positivo, chiaramente, è l'uso della tua voce, l'uso che ne fai della voce, un po' particolare. Nella recensione noi abbiamo citato Jane Sorrenti. Perché abbiamo citato Jane Sorrenti? Jane Sorrenti è una musicista, è tanto la sorella di Alan Sorrenti, quando lui non faceva Figli delle Stelle, fortunatamente, faceva delle cose molto più interessanti. E lei aveva un gruppo che si chiamavano i Saint Just, in cui giocava, nel senso positivo, con la voce, con certe sonorità, e secondo me in alcuni momenti tu ti avvicini a lei. Lo ricordo, mi è già stata fatta questa osservazione da un batterista, percussionista qui di Genova, tra l'altro. Bene, mi fa piacere. La stessa cosa, sì, lo stesso, e ogni volta mi diceva: ma tu mi ricordi Jane Sorrenti? No, sai, mi ricordi. Una musicista straordinaria, Jane Sorrenti, faceva parte del prog italiano, Napoli era il cuore del prog negli anni 70, sì, assieme ad altre città, sì. Però era molto brava, secondo me, molto brava, e riusciva a colorare la voce in una certa maniera, e tu in determinati momenti, in determinati istanti, ci avvicini, secondo me. Cercherò di approfondire, ecco, in realtà, bene, perché la conosco molto poco, purtroppo, devo dire la verità, però cercherò di approfondire questa cosa, perché a questo punto sono incuriosita da questo parallelo, anch'io. Sì, grazie per l'ulteriore consiglio. Allora, prima di entrare sul tuo progetto, che proprio il progetto in pratica Neve su di lei, c'è stato un altro piccolo tassello importante nella tua vita che hai condiviso con Davide Rizzo. Sì, Davide è morto. Morte? Che significa cosa poi? È stato un incontro importante, perché soprattutto perché comunque grazie a questo incontro io ho viaggiato tanto, perché abbiamo cominciato a suonare insieme, lui era un bravo percussionista anche lui, e abbiamo cominciato a suonare insieme, abbiamo viaggiato per tutta l'Italia per 5 anni, e lì sono riuscita a fare della musica un mestiere per 5 anni. È stata un'esperienza assolutamente fondamentale per quello che poi è stato il lavoro sul disco, perché tutte queste serate fatte live, tutta questa gente conosciuta, tutti questi posti, io spero tanto di essere riuscita a buttarli dentro il microfono, insomma, in un modo o nell'altro, però so che quando ero lì che registravo le sentivo queste cose dentro e sulle spalle, insomma. Quindi ha contribuito non poco alla tua crescita. Sì, dal punto di assolutamente vista, sì, senza dubbio. Suonare dal vivo è la cosa più importante, e provare e riprovare davanti a un pubblico è ancora più importante, è fondamentale per una crescita musicale, secondo me. Sono d'accordo, io l'ho fatto tanto, ho puntato tantissimo io sul live, io poi sono una perfezionista, anche troppo. Probabilmente in alcuni casi potrei anche un po' più lasciare andare le cose, però è stato fondamentale tutta quella musica suonata dal vivo, tutti quei posti lì, cioè, ne ho visti veramente di tutti i colori, e ogni tanto me le ricordo tutti questi posti che ho visto, queste persone che ho conosciuto, e non so proprio dove cominciare veramente a raccontare, no? Allora, tutte queste esperienze. Marcella, io direi a questo punto che possiamo passare a un altro brano a fare ascoltare. Facciamo ascoltare, poi ti chiedo io qualcosa di particolare, una frase che mi ha colpito tantissimo, che secondo me rispecchia veramente il tuo stato d'animo quando hai scritto questa canzone. Allora noi proponiamo a questo punto, sempre dal tuo ultimo lavoro, Cosa sono io. Cosa sono io? Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Rieccoci, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, 88 e 700 MHz, ma potete ascoltarci anche in streaming sul sito www.bluradioveneto.it. Sulla sinistra vi trovate un bel bottoncino con delle cuffie, ci cliccate sopra e potete ascoltarci. Se volete anche intervenire, chiedere qualcosa alla nostra ospite, basta anche andare su Facebook e cercare Blu Radio Veneto Rockway, là avete la possibilità di scriverci qualche messaggio. Allora Maurizio, cosa dici di questa canzone? Sì, abbiamo scelto, cara Marcella, questo pezzo. Perché l'abbiamo scelto? Perché ci piaceva, in ogni caso, questo è il primis. E poi perché era circolare, accattivante, ti riempiva immediatamente. E dobbiamo sottolineare il lavoro di Cesello che ha fatto Ruben gli arrangiamenti. È una cosa meravigliosa, c'è poco da dire. E dobbiamo sottolineare un'altra cosa, che hai suonato la chitarra di Ruben. La Marti di Ruben, era un po' geloso. Era un po' geloso, sì. Era un po' geloso, ho detto, sì. Ma vediamo. Devi toccare in una certa maniera. Lì, è stupendo quando parla, io lo adoro veramente, Ruben. Non riesco a imitarlo bene, però era proprio... Io so che quando lui, gli ho mandato i provini, lui mi chiama al telefono e mi fa, ecco questa qui, parlando di questa canzone, questa qui è proprio, se io fossi il produttore di un'etichetta grossa, sarebbe il singolaccio. Eh sì, è vero, hai ragione. Singolaccio. E HP che ci ha avuto ragione, perché in effetti non ricorderò sempre questa telefonata che mi ha fatto. Ruben è venuto più di una volta qua da noi, è sempre simpatico e poi è un artista che crea un sacco di facce, un sacco di espressioni musicali, sì. Ed ha pescato te, ha pescato benissimo secondo noi. Grazie mille. Io volevo portarti saluti anche di una nostra fedelissima, ma non solo ascoltatrice, ma è anche una bravissima cantante, che è Giulia Daici, che ti sta ascoltando. Ti leggo quello che mi ha scritto. Ha una voce, uno stile molto personale e particolare. Grazie. Ecco, tra l'altro Giulia fa anche delle recensioni su qualche rivista, quindi veramente anche il suo contributo questa sera è importante. Allora, io la ringrazio moltissimo, Giulia. E magari poi ci sentiremo anche su Facebook, chissà, perché poi il bello di queste cose è che possono nascere anche dei contatti, delle cose, no? Bello di internet, dello streaming, insomma, anche questo, credo. Guarda, quindi, Giulia ti sta ascoltando, sicuramente ti chiederà l'amicizia. Io volevo ritornare un attimo sul testo, perché per me rappresenta sempre un qualcosa di particolare. Scrivi, quando parlo non dico niente, ma sul palco ho il cuore in mano. Sì, grazie della domanda, grazie dell'osservazione, perché non me l'ha mai chiesto nessuno qualcosa su quel verso lì. E io intendo dire semplicemente che capita un po' a tutti, no? Quando si è magari in piazza con gli amici, nel locale, no? Si parla magari anche di cose un po' inutili, no? Perché sei lì e conosci magari qualcuno di nuovo, te lo presentano e tu racconti delle cose, però in realtà non è che stai dicendo un granché, no? Certo. A me è capitato, è brutto, no? Però capita. E però invece appunto quando sono sul palco questo non succede. Certo. Non c'è mai niente di inutile quando sono sul palco, ecco. Di questo mi sono immaginato, perché avendo letto un pochino anche il tuo passato artistico, tu hai cercato moltissimo il palco e l'hai vissuto tantissimo. Sì, l'ho vissuto tantissimo e anche in modo difficile all'inizio, molto difficile, perché ho dovuto vincere veramente delle paure grosse. io mi ricordo le prime volte che salivo sul palco, ero anche già grande, perché in realtà appunto io tutto sommato sono artisticamente molto più giovane di quello che è la mia età. Io veramente mi ricordo di momenti proprio difficili, di paura di salire su quel palco, però sono sempre salita e ogni volta era più bello, e ogni volta un pezzettino di quella paura, di quell'ansia se ne andava. E fare tutti quegli anni di questi 5 anni di esperienza è stato veramente catartico, sì. Decisamente. Diciamo anche che tu hai fatto da fino al 2010, e poi ne parleremo un attimo, hai fatto anche una pausa, hai fatto circa 200 concerti in tutta Italia. All'incirca sì, anche qualcuno di più credo, sì, perché alcuni non sono stati ricordati, nel senso, però sì, ne ho fatti tutto sommato abbastanza. Sì. Sono molto molto fiera, anche perché li ho proprio fatti, era tutta roba che ho trovato io, quindi mi sono proprio cercata i posti, ho parlato io con i locali, ero proprio molto self-made, e orgogliosamente, ecco. Poi ognuno sceglie ovviamente la sua strada, io avevo scelto di fare così, tutto da sola. Fra i tanti musicisti, Marcella, hai conosciuto anche Dirk Hamilton. Ah, Dirk Hamilton, simpaticissimo Dirk Hamilton, ah, fortissimo, tra l'altro recentemente allo Staia da Uneo, dove suonerò tra l'altro il 21 febbraio. Ah, vedi. Sì, simpaticissimo, un gran personaggio, un bravo cantautore, un bravo chitarrista, molto molto interessante è stata quella serata, una bella serata. Quindi sì. hai avuto tanti trascorsi musicali con tante persone che hai conosciuto sul palco, e sul palco, abbiamo già detto precedentemente, è la base di tutto, e tra l'altro hai conosciuto anche Molteni, adesso non si chiama più Molteni, ha un altro nome, sì. Il suo nome. Umberto Maria Giardini. Esattamente, sì. Però grande musicista anche lui. Grande musicista anche lui, un personaggio tutto particolare, assolutamente non è uno che vuole farsi vedere, ah, assolutamente non gli interessa, no, non gli interessa e... Gli interessano tante cose, e molto, molto interessante anche quella serata che avevo fatto, è stato un bel incontro anche con lui, ma lui non penso che si ricordi assolutamente, io mi ricordo di lui, ma lui non penso proprio. Non si sa mai. Com'è stata la tua prima emozione quando hai messo piede dentro uno studio di registrazione? C'ho scritto una canzone, anche se ovviamente non è nel disco, però per raccontare quell'emozione ci ho scritto già un pezzo. È stato bellissimo perché innanzitutto lo studio è sotto il mare, Recording Studios di Povegliano, in provincia di Verona, sì. E Luca Tacconi, una bravissima persona, veramente la persona giusta, ci voleva lui. È stato, non lo so, come fare, come la prima volta che vai in bicicletta, come la prima volta che nuoti, come la prima volta che vai in aereo, una cosa che non te la dimentichi, quell'emozione lì. Il bambino che comincia ad andare in bicicletta non se la dimentica, quell'emozione lì di quando finalmente sei senza papà che ti tiene dietro. È stato un po' così. Anche perché inaspettatamente poi è arrivata questa telefonata, chiamata di Ruben, che poi è stata una gioia. Sì, lui mi ha scritto questa mail, mi ha detto, guarda, è un po' di tempo che vorrei produrre qualcuno, vorrei iniziare a produrre te. E io non ci credevo, perché pensavo, nel 2011, pensavo che non avrei più suonato, non sapevo bene quale sarebbe stata la mia storia musicale. E quindi il fatto che lui mi abbia cercato in quel momento è stato bello, e io ci ho pensato 2 secondi e ho detto, beh sì, dai, si fa. Ecco, questa è ricchezza. Marcella, questa è ricchezza di suoni, tanti colori, tanti strumenti acustici per lo più. Sì, sono praticamente tutti acustici, ci sono delle tastiere, perché poi c'è un pezzo sperimentale, sì, esattamente. A cui io tengo molto, tra l'altro, in cui c'è il mellotron, c'è il clavine, il Hammond, appunto il Wurlitzer, che invece sono strumenti, appunto il mellotron, l'Hammond, sono strumenti elettronici in realtà, ma In generale però stiamo parlando di tutta di strumentazione assolutamente acustica e mi rispecchia in pieno questo, certo, perché non avrei potuto fare altrimenti. E io mi sono emozionata tantissimo quando ho visto e poi sentito le registrazioni degli archi. Mi sono emozionata proprio tantissimo, proprio non ci credevo quando le ho sentite quelle parti. Sono curate da Carmelo Leotta, vero? Gli arancioni. Carmelo Leotta, che ho ringraziato proprio tantissime volte. Ha fatto degli arrangiamenti veramente bellissimi, secondo me. Cioè, io sono rimasta molto colpita dal fatto che sia riuscito così tanto a entrare nei pezzi con questa facilità e a scrivere delle cose che veramente a me personalmente mi hanno toccato moltissimo. Neve, ci ascoltiamo Morbido Dolce La Minore. Ok, una canzone dolcissima e poi ritorniamo a parlare di te. Ok. Blue time. Io lascio a te il commento, Maurizio. Marcella, questo secondo me musicalmente è uno dei pezzi più emozionanti, forse il più emozionante del disco. E questo, per quello ho citato Gensorenti, questo si avvicina notevolmente a Gensorenti. Grazie. Veramente un pezzo meraviglioso, bellissimo. È bello anche l'inserimento degli archi. Gli archi danno quella sensazione perfetta, un colore particolare, una colorazione particolare del pezzo. E per quello è interessante e significativo, secondo me. Sì, è stato una bellissima, secondo me, una bellissima idea quella di Ruben, di lasciare, appunto, lui ha voluto lasciare, ha voluto lasciarmi sola, io con questa chitarra, e poi alla fine ha voluto che intervenisse la bravissima, secondo me, Sara Conte al violoncello, certo. Che è quasi una sorpresa, non te l'aspetti. Questo sul finale, io penso che sia stata una scelta azzeccata. Ci tengo molto a questa canzone perché comunque l'ho scritta per una persona che è stata importante nella mia vita, quindi è semplicemente poi una canzone d'amore, banalissima però, banalissima, come tutti gli amori, comunque banalissima, ma ogni amore è diverso, quindi ovviamente no. Neve, io volevo anche parlare un attimo di questa tua simpaticissima copertina, originale come la tua voce. Grazie. E questa copertina... descrivila a te un attimino, pensato. Così dai l'idea di cos'è questa copertina. Allora, in questa copertina c'è un disegno che passa appunto da davanti poi fino al retro, quindi un unico disegno che copre tutta la cover, diciamo. È un disegno abbastanza un po' infantile, ha rappresentato un albero con tantissimi rami e ramificazioni, con tutte le foglie colorate in modo diverso, tanti fiori Farfalle. Colorati anche loro in modo diverso, e fiori che si intersecano, uccellini che cantano, c'è un piccolo unicorno e... in un lato della copertina ci sono io. E che significato hanno questi? Cioè, è legato a qualcosa o sono casuali? Ma io mi sono un po' lasciata trasportare anche un po' dalla fantasia, ho guardato anche dei libri, mi sono un po' ispirata, ecco, quello sicuramente. Però comunque tutti questi simboli, l'albero, l'unicorno, i fiori, questi alberi anche un po' staccati, sono tutte cose che... in un certo senso rientrano nel mio lavoro, la natura, i fiori, la fantasia, le cose un po' fiabesche, e il castello, sono tutte cose che fanno parte del mio mondo musicale, ecco, e anche non solo musicale, in un certo senso. Pensavo fosse legato anche, perché so che ci tieni, anche a questo tuo lavoro che fai, perché oltre a suonare... Ma assolutamente, sì, io oltre a suonare, non riuscendoci a vivere, faccio l'educatrice, quindi lavoro con i bambini, con i ragazzi, e questo disegno sicuramente rappresenta anche un po' il lavoro che faccio, quindi... c'è l'aspetto infantile e poi però ci sono anche io, che in realtà la mia immagine non è disegnata, ma è una fotografia. E penso, a proposito di bambini, non so, ti chiedo, Emiliano arriva in un giorno di pioggia, magari è dedicato a uno dei tuoi bambini? No, in realtà Emiliano è un mio carissimo amico, è un mio carissimo amico che ha in effetti un modo di essere un po' da piccolo, ma nel senso positivo. È un ragazzo molto curioso delle cose, un grande ascoltatore di musica, e in realtà quella canzone è dedicata a lui. Allora, io volevo, cioè noi volevamo, scusa, avere il tempo di fare ascoltare come minimo prima di chiudere, perché il disco lo merita veramente, no Maurizio? Sì, esattamente, abbiamo deciso, se c'è tempo, sicuramente il tempo c'è, di far sentire altri due pezzi, Marcella. Va bene, uno è Un viaggio stanotte, cosa facciamo? Lo sentiamo subito Un viaggio stanotte e poi ne parliamo, ok? Va bene. Carino, c'era nel bombino, ma Blue Time. Blue Time. Blue Time. Ecco, come al solito il tempo corre velocissimo. Noi, Marcella, avremo tantissime cose da chiederti, però dobbiamo rispettare un attimo i tempi. Dobbiamo dire una cosa, secondo me, anche importante, perché qualcuno dirà: ma come mai questo nome Neve su di lei? Neve su di lei, velocissima così. Sì, Neve su di sì. lei era semplicemente il nome della prima moglie di Toro Seduto, che era il grande capo Sioux. Io sono sempre stata una grande appassionata di storia, di antropologia, mi piacciono molto le culture dei popoli. Leggevo questa biografia, ho visto questo nome, mi è piaciuto da morire, stavo cercando un nome d'arte, ho detto me lo prendo prima che te lo prenda qualcun altro. E penso che sia molto, molto significativo e importante, anche c'entra con quello che faccio, moltissimo. Boh. Bene, è una promessa che ci devi fare. Noi ne abbiamo già parlato pochi giorni fa. Tu devi tornare qui in radio a fare un live. Va bene, accetto e sì. Penso proprio che mi porterò dietro la mia fedele flautista Daniela Piras, certo, che non è certo. nel disco, ma verrà. Perché verrà, è indispensabile per ampliare il nostro discorso. Quando si parla di Joni Mitchell non si può, o di Joni Mitchell o similari colori, non si può ridurre a 40 minuti, chiaramente. È quello il motivo. Tutto. Però okay, il disco è molto bello, è molto positivo, un esordio decisamente. Ruben, ripeto, ha scelto veramente ok, secondo me. Quindi... Grazie mille, siete molto gentili, sto un po' arrossendo. Ah, non si vede, rossa. Non si vede, ma si può immaginare. Vabbè. Allora, Neve, prima di ascoltare l'ultimo brano, i tuoi riferimenti web e se qualcuno vuole ascoltare il tuo CD, come deve fare? Sì, va bene. Allora, innanzitutto i riferimenti li trovate su Facebook, Neve su di lei, semplicissimo. Potete scrivermi ai contatti info@nevesudilei.it. Potete trovarmi sul mio blog, nevesudilei.blogspot.it. Così vedete i disegni. Che parlavamo prima. Esatto. E naturalmente il CD, in questo momento il disco che si chiama Cerco la bellezza, lo troverete ai concerti, si può trovare i concerti e contattandomi su Facebook oppure ai contatti che ho appena dato. E poi c'è anche il sito che sta arrivando, nevesudilei.it. Bene. Sta arrivando piano piano. Allora, Marcella, io dovevo chiederti anche un'altra cosa sulla traccia che abbiamo ascoltato prima, ma non c'è il tempo. Volevo sottolineare un'altra piccola frase dell'ultimo brano che mettiamo in onda, che è Cerco la bellezza, dove scrivi: il segreto è comprendere chi è diverso da te. Sì, penso che sia quello il segreto della bellezza vera, cioè cercare di uscire fuori da se stessi e vedere quello che c'è fuori, che non è detto che corrisponda per forza ai canoni della bellezza o anche ai canoni propri, ecco, di quello che noi consideriamo bello. E io questo devo dire che lo sto imparando tantissimo col lavoro che faccio, perché facendo educatrice ne vedo tantissima di bellezza, ma non è quella bellezza che di cui si parla sulle riviste o in televisione, è un'altra cosa, certo. Decisamente. Ecco, io dico che le parole sono importanti e nei tuoi testi ho trovato qualcosa veramente di molto forte, molto emozionante, molto interessante. Grazie mille. Quindi grazie. Chi acquista il CD di Neve su di lei deve anche fare attenzione, in particolar modo, oltre che la sua splendida musica, sicuramente ai testi. Grazie. Allora, mille. La promessa... Ci sentiamo live qua davanti, qua in studio. Okay. Doppia promessa, speriamo di portarti bene col primo CD, il prossimo. Speriamo, capofila, io vi ringrazio Veneto. Tantissimo per questa opportunità, insomma, per avermi ospitato, è stata veramente una bella serata, mi sono divertita e ho detto un sacco di cose che di solito non posso dire, quindi sono molto contenta. Ecco, allora guarda, prima ringraziamo anche Ruben perché anche lui è stato un tramite, mi ha dato la massima disponibilità. Grazie Ruben, grazie. Un grande abbraccio a Ruben e poi non ci resta altro che ringraziarti, ok Neve? Grazie a voi, grazie a Maurizio, grazie a Gil, grazie a Blu Radio Veneto, grazie mille. Un saluto a tutta Genova e tutte le persone che si sono sintonizzate con noi per ascoltare Neve su di lei. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie. Neve, ciao. Maurizio. Sì, abbiamo finito la prima parte, poi fra qualche minuto arriverà un cantautore, Pierpaolo Lauriola, che presenterà il suo disco nuovo, Polvere, ma avremo tempo di parlarne fra qualche minuto. Abbiamo deciso di concludere con la title track, così come si diceva una volta. Sì, e prima di concludere volevo anche ricordare che domani sera ci sarà Agostino con Zazza, musicista genovese anche lui, tra parentesi. Ecco, Genova per noi, diceva Bruno Lauzi all'epoca. Ecco, per quanto mi riguarda, il giorno 13 non ci sarò, tornerò il giorno 20 con un gruppo organizzato da Alberto Prisco che si chiama Caffè Sport Orchestra. Perfetto. Quindi anche salutiamo anche Alberto, che è il nostro curatore. Grazie Alberto. E quindi adesso ci ascoltiamo, Maurizio. Sì, la title track del disco, Cerco la bellezza. Grazie a tutti, un saluto e un abbraccio a tutta Padova e a tutta Italia, visto che siamo anche in streaming. Indubbiamente. Thank you.